partita con il giusto equilibrio di umidità, tanto che il Ministero dell'Agricoltura si era sbilanciato nel prevedere un'annata record per la raccolta dei cereali. Ora invece le stime stanno precipitando e gli agronomi parlano già di una perdita secca di almeno il 30% della produzione. La seconda notizia, ve l'ha citata anche nella controcopertina, ve l'ha raccontata Enrico Pagliarini. Ribadisco, oggi è una giornata importante sul fronte dei grandi gruppi dei mobile device, della tecnologia portatile. Apple chiede a Samsung il risarcimento del secolo. Al via il processo, l'azienda di Cupertino accusa la rivale di aver copiato elementi importanti dell'iPhone e dell'iPad. La posta in gioco, scrive Massimo Gaggi da New York, va molto oltre i 2,53 miliardi di indennizzi chiesti dall'Apple. Insomma, una vera e propria sfida all'ok Coral tra Apple e Samsung sul fronte della telefonia. Dunque ripartiamo da Taranto, l'avete sentito anche nel GR, è andato in onda pochi minuti fa. Dunque il fine settimana di caldo sull'Italia intera, soprattutto sul sud, ma la grave crisi che appunto la questione, il blocco della produzione dell'Ilva impone riguarda un'intera città. E noi questa mattina dunque ripartiamo proprio da Taranto con il sindaco della città, il sindaco Stefano. Buongiorno, grazie di essere con noi innanzitutto. Buongiorno, grazie a lei, saluto tutti gli ascoltatori. Allora sindaco, abbiamo detto non più di 10 minuti fa che alle 9 si riapre la vicenda Ilva e si riapre dal Consiglio Comunale. Allora le chiederei prima di darci un quadro, siccome gli appuntamenti sono molti e i tavoli sono complessi, di chiarirci che cosa significa, perché alle 9 il Consiglio Comunale? Beh, innanzitutto per testimoniare ai lavoratori e alle loro famiglie, ma soprattutto alla città di Taranto, perché guardi, il problema dei lavoratori dell'Ilva è il problema della città di Taranto, la vicinanza e dire che le istituzioni sono tutte unite per risolvere il problema. Ricordiamo, sindaco, quanti lavoratori, quanti tarantini sono coinvolti, lavorano direttamente o indirettamente per l'Ilva? Superano le 15.000 unità e lei può quindi pensare che in questa città non c'è una sola famiglia che non abbia o una persona che lavori nell'Ilva o un amico o un conoscente. Quindi quando dice che riguarda la città non è un'espressione, non è un modo di dire, ma è l'impatto in una città, magari ci torniamo, una città provata sul fronte economico da anni complessi. Prego sindaco. Certo, d'altra parte questo blocco che c'è stato, vanno fatti i complimenti ai lavoratori che hanno bloccato però con grande correttezza, e anche un complimento ai tarantini perché hanno compreso che l'unità e dovevamo dimostrare la nostra sofferenza. Ebbene, il Papa ha ricordato ieri all'Angius la sofferenza della città di Taranto e con le sue parole portando all'attenzione dell'intera nazione il nostro dramma, ma lo ha trasformato in speranza. Sindaco, che cosa si aspetta nell'immediato? Guardi, dobbiamo dire che già in data 26 luglio di quest'anno naturalmente è stato firmato un protocollo d'intesa per interventi urgenti di bonifica, di ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto fra il Ministero dell'Ambiente, delle Infrastrutture, dello Sviluppo Economico e della Coesione Territoriale, con la Regione Puglia, Provincia e Comune. Ora quindi già partiamo da questa base di 336 milioni che serve per avviare e iniziare i lavori, per difendere l'ambiente, la salute e il lavoro. Ora c'è bisogno che anche l'Ilva faccia la sua parte e io sono convinto, perché dalle parole del nuovo presidente nella conferenza stampa c'è una risposta positiva al dire noi vogliamo rimanere a Taranto e quindi vogliamo rispettare quelle che sono le indicazioni date dalla magistratura, che poi è il sentire della nostra città, che vogliamo e che quel che ha ricordato il Papa, noi vogliamo il rispetto della vita e vogliamo il rispetto del lavoro, anzi vogliamo lavorare di più e meglio. Ecco, sindaco, a proposito del nuovo presidente Bruno Ferrante, dunque l'Ilva si impegna a cambiare pagina, i sindacati, i movimenti, la sinistra, il Vaticano, tutti uniti, tutti solidali, sembra alla fine che insomma i cattivi stiano solo in procura, eppure. Appunto Taranto, l'Ilva e gli impatti drammatici ambientali, poi approfondiamo, lo anticipo, lei è sindaco ma è anche ematologo, è medico, è pediatra, quindi sì, so che conosce bene questo dossier, è paradossale, è anche orribile sotto certi punti di vista il fatto che oggi la procura, che fa il suo mestiere, ricordiamolo che l'azione penale in questo paese è obbligatoria, e che denuncia dunque l'inazione, le violazioni, sembri oggi il cattivo, l'isolato della situazione. Guardi, allora, naturalmente nessuno ha mai detto questo, tantomeno noi invece che ringraziamo, l'abbiamo fatto già da tempo, lo rifacciamo ancora oggi. Guardi, mi posso permettere di fare un esempio da medico? Prego. La magistratura ha fatto la diagnosi e noi non ci dobbiamo prendere col medico che fa la diagnosi, dobbiamo prendercelo con chi ha provocato la malattia. E quindi, voglio dire, adesso bisogna trovare la cura. Ha indicato in maniera precisa, una fotografia precisa che fa dice la sofferenza di questa città da 120 anni, attenzione, non è soltanto la siderurgia, abbiamo anche l'ENI, abbiamo anche Cementer, abbiamo avuto in passato i cantieri navali con l'uso dell'amianto, cioè in pratica, voglio dire, hanno fatto la fotografia, quindi hanno fatto la diagnosi. Adesso a tutte le istituzioni bisogna trovare la terapia. Ecco, sindaco, c'era bisogno che la diagnosi la facesse la procura? La politica non è riuscita a fare questa diagnosi negli anni passati? Certamente no, però voglio dire, non è che dobbiamo dare la colpa alla magistratura se ha fatto bene. No, infatti, lavoro. In questo caso appunto mi riferivo alla colpa, sì, semmai è della politica. In queste cose importanti, se nessuno interviene, c'è pur bisogno che un'istituzione, certo, dia una risposta chiara, che intervenga. Ma adesso io dico, mettiamoci alle spalle tutte queste che possono essere le differenze e le diversità di opinioni. Guardiamo in maniera concreta alla possibilità che oggi c'è, grazie anche alla ricerca scientifica, di poter controllare gli inquinanti, alle ricerche metodologiche per poter ridurre la quantità di inquinanti, quindi il governo ha dato il primo segnale, deve continuare. E poi noi abbiamo detto un'altra cosa, perché i problemi di questa città non sono solo i problemi della salute e dell'ambiente, ma abbiamo infatti chiesto al governo di affrontare il problema Taranto, i problemi sociali. Dice, ma tutto il mezzogiorno è in queste condizioni? No, Taranto è una situazione particolare di sofferenza, è una città che per 120 anni ha dato alla nazione e oggi chiede attenzione da parte del governo, della nazione, perché venga data una risposta a questi problemi annosi. Insomma, una città che per tanti anni è stata, almeno per molti di noi che viaggiamo intorno ai 50, è stata la città della Marina Militare, la città dell'arsenale, naturalmente la città di vacanze marine e di spiagge bellissime, di luoghi da raggiungere. Oggi abbiamo parlato di come il turismo impatti così fortemente nell'economia del nostro paese, una città che ancora ieri sera abbiamo osservato, credo l'abbiate visto in molti sui telegiornali nazionali, per esempio la crisi devastante delle vongole. Oggi parliamo naturalmente dell'Ilva, ieri sera abbiamo appreso che c'è stato un ennesimo blocco della produzione della raccolta ittica. Certo. Ecco, anche questo, una città che davvero deve estirpare, deve voltare pagina definitivamente rispetto a un problema industriale e di salute che, ricordiamolo, oggi è Taranto, ma è stato Monfalcone, è stato l'asbestosi, l'amianto, è stato il Piemonte. Ecco, parliamo un momento proprio col medico sindaco di Taranto. Oggi leggo delle pagine sognando nuvole bianche, una raccolta di disegni di bambini di Taranto sull'inquinamento e sull'Ilva. Certo, è una raccolta, per cui per definizione deve colpire, ma insomma, quello che emerge da questi disegni è una città veramente assediata sì, da un'industria benefica. Tro, tro, troppo vicino alla città, e che ha procurato insieme con altri, voglio dire, perché qui, come diceva lei, dobbiamo guardare a 360 gradi, e come ti ricordavo prima, non a caso parliamo del problema Taranto. I nostri mitilicoltori hanno lavorato per un anno e abbiamo dovuto distruggere parte del prodotto, perché dobbiamo ricordare che i mitili di Taranto sono buoni perché sono controllati ogni 15 giorni. Quelli che servono però di una parte del Mar Piccolo, quelli purtroppo sono inquinati e li abbiamo distrutti. Allora le sofferenze sono tante, ma ripeto, adesso facciamo il punto della situazione. Dobbiamo fare le bonifiche, per fare le bonifiche dobbiamo avere la certezza che non si inquini più, e dobbiamo fare un programma di come dobbiamo proseguire, perché dobbiamo una volta per tutte risolvere il problema, trasformare questa sofferenza, queste piaghe, in una grande opportunità di rinascere la nostra città. Come lei ha ricordato, è una città bellissima, e voglio ricordare che il nostro castello aragonese, sede della Marina Militare, è il secondo sito in Puglia visitato come numero di visitatori, è una città che si affaccia al turismo, che in prima linea per le sue bellezze, per la sua storia, per il suo museo della Magna Grecia. Insomma, Taranto. Assolutamente, le opportunità non mancherebbero. Sindaco, giovedì il Tribunale del Riesame dovrà decidere sul provvedimento del GIP. Cosa si aspetta? Mi aspetto che l'Ilva dica che cosa intende fare insieme col governo sempre di più per rispettare quelle norme che la magistratura ha dettato a difesa della salute dei cittadini di Taranto. Grazie allora, 8:30 in questo momento, ringrazio dunque Ipazio Stefano, sindaco di Taranto, peraltro al secondo mandato, è stato rieletto recentemente con un voto popolare molto ampio, oltre il 67% delle preferenze. Abbiamo sentito tra mezz'ora a questo punto Consiglio Comunale, che apre di fatto una settimana molto critica, una settimana in cui si ricerca l'impossibile, e devo dire che, come dire, con atteggiamento tutto italico, quadratura del cerchio, di un cerchio che, come lo stesso sindaco ha detto, la procura ha fatto la diagnosi, quindi la diagnosi arriva nell'estate del 2012 a fronte di un problema presente sul territorio ormai da tanti anni. Da una sommaria ricerca, sommaria nel senso che non era proprio il centro della rassegna stampa di questa mattina, ma dicevo da una sommaria ricerca sui quotidiani stamattina, rapidamente sono saltati agli occhi almeno due titoli che riguardano gli animali e i cani. Uno oggi dal Corriere: corsa per salvare Gina, il cane preso dalla medusa, stava nuotando, l'ha scambiato per una palla, non respirava più, ma insomma tutto è finito bene. Un articolo di taglio basso, molte righe per raccontare con dovizia di foto come un'intera spiaggia si sia nel mare di Liguria si sia mobilitata per salvare un cane che, poveretto, ha pensato bene di morsicare una medusa. Cause bestiali in tribunale, nasce l'avvocato degli animali, quando i quattro zampe fanno litigare. Invece una storia nella cronaca di Milano del Giornale di come appunto Francesca Passerini, avvocato animalista, dedichi sostanzialmente la sua attività alle diatribe che emergono, alle cause che sorgono intorno appunto alla cura e al trattamento degli animali. Ecco, questo per ricordare ciò che evidentemente è ovvio a tutti noi, che siamo un paese di grandi amanti di cani, di gatti, che amiamo circondarci dunque della loro presenza, un paese che a volte si interroga, e lo fa anzi ripetutamente, sull'opportunità nel 2012 di imporre agli animali la sperimentazione appunto scientifica, sugli animali la sperimentazione scientifica. La fine della settimana scorsa avrete tutti visto nei filmati o letto la notizia riguardo ai cosiddetti cani di Green Hill, e le fotografie erano davvero bellissime, come possono essere quelle di appunto di beagle, di adulti, molti cuccioli, a cominciare da Vegan, la prima cagnolina liberata. Ecco, per ricordare quello che è stata una vicenda che dura da mesi, abbiamo questa mattina con noi Giuliano Floris, che è attivista del coordinamento Fermare Green Hill. Buongiorno. Buongiorno. Allora, voi celebrate una vittoria anche sul vostro sito fermaregreenhill.net, la prima beagle a uscire da Green Hill. Ci aiuta a ricostruire in breve la vicenda che vi ha visto presenti sul terreno per mesi, direi? Noi sono stati anni. Ecco. La prima grossa manifestazione che portò in piazza 3.000 persone si fece addirittura nell'aprile del 2010. Poi la vicenda venne, diciamo, agli onori della cronaca e venne seguita di più dalla stampa quando 5 di noi salirono sui tetti dell'allevamento, insomma, per attirare un po' l'attenzione. Certo, e con successo, a quanto dice. Sì. Ecco. Niente, è stata una lotta che noi non ci aspettavamo sarebbe mai arrivata veramente a un epilogo di questo tipo, anche se l'allevamento non è ancora chiuso. Però... Certo. Ecco, fermare Green Hill è fermare quell'azienda o è fermare qualsiasi tipo di utilizzo, di impiego di animali, mammiferi? Ci aiuti a capire, nel campo della ricerca. Sì, questa qui è un'occasione che noi abbiamo avuto per poter parlare di vivisezione e di sfruttamento degli animali in genere. Purtroppo no, la stessa visibilità non si sarebbe ottenuta probabilmente se noi avessimo fatto una battaglia contro un allevamento di topi, per esempio. La sensibilità che le persone hanno nei riguardi dei cani è diversa, ma noi vogliamo comunque veicolare il discorso per portare le nostre idee anche contro lo sfruttamento degli altri animali. Quindi contro lo sfruttamento di tutti gli animali e in tutti i casi? Sì. Sì. Voi... Noi vorremmo spingere le persone a fare una scelta personale, che è quella più importante, per esempio smetterla di mangiare animali, di indossarli, di sfruttarli. Ho capito. E da qui dunque, tra l'altro, la scelta di Vegan... la scelta anche di un nome simbolico, dunque, che riguarda non solo le implicazioni, appunto, della ricerca, ma anche, come ci ha detto un istante fa appunto Giuliano Floris, l'alimentazione animale. Grazie di essere stato con noi, Floris. Prima di lasciarci, adesso a che punto siete? Dunque, alla fine della settimana scorsa abbiamo visto il viaggio di alcuni beagle in treno verso Roma, ma oggi a che punto siamo? L'affidamento continua? Sì, si continua dalla mattina alla sera, le persone che vengono convocate sono tante e continuano ad arrivare richieste. Noi cerchiamo di, insomma, fare del nostro meglio per sveltire l'operazione. E per soddisfare le richieste. Grazie a Giuliano Floris, lo ricordo, attivista del coordinamento Fermare Green Hill. Allora proseguiamo, abbiamo con noi questa mattina anche Lorenzo Moia, medico ricercatore dell'Università di Milano, ricercatore al Mario Negri. Dottor Moia, buongiorno. Buongiorno. Allora, perché i cani, perché gli animali servono alla ricerca? Gli animali servono alla ricerca perché abbiamo bisogno di studiare le malattie in una fase dello sviluppo dei farmaci in degli esseri viventi. Non possiamo sostanzialmente dare il farmaco in primis all'essere umano senza essere passati da degli animali, che sono degli organismi comunque complessi che ci danno molti dati prima del passaggio poi all'uomo. Quindi il processo sperimentale del farmaco, che immagino inizi da qualche parte sotto un vetrino, prosegue in forme di vita che si avvicinano progressivamente al destinatario finale, cioè l'uomo. Esattamente, esattamente. Quindi c'è un momento fondamentale in cui si utilizza l'animale, e che ovviamente quindi non è un passaggio obbligato, per quanto doloroso, proprio perché l'animale è l'essere che assomiglia di più all'uomo. Non possiamo pensare che poche cellule in una prometta assomiglino alla complessità del nostro organismo. chiaro, almeno mi sembra chiaro il concetto in termini scientifici e biologici. Non esiste, in che modo nel corso degli anni l'impiego sugli animali della sperimentazione è cambiato? Voglio dire, se a suo tempo ci furono delle grandi campagne contro l'impiego, per esempio, nella cosmetica, contro, insomma, forme che effettivamente anche con una trasformazione culturale, col senno di poi, assomigliavano a delle forme di tortura. Oggi a che punto siamo? Beh, oggi ovviamente la cultura della società è una cultura che ci spinge a fare ricorso a un numero sempre inferiore di animali, quindi il tentativo è quello di utilizzare dei metodi integrativi per aumentare le conoscenze, il numero degli animali quindi che viene utilizzato nella pipeline della ricerca è sempre inferiore, si cercano di utilizzare anche degli animali che siano il più assomiglianti ad una malattia per ridurne il numero, sono cambiate anche molto le condizioni nei laboratori perché gli animali sostanzialmente vengono tenuti in condizioni di grande garanzia. Ecco, sperimentazione significa inevitabilmente dolore? Oppure no, al di là del fatto che ovviamente l'animale, a differenza della sperimentazione sull'uomo, non può essere coinvolto, non può essere messa in causa la sua volontà, e questo è un punto fermo, ma è davvero come dire inevitabile che alla sperimentazione sia associato il dolore per l'animale? No, sfatiamo questo mito, non è che nei laboratori ci siano delle camere di dolore. Assolutamente, l'animale viene sedato, viene anestetizzato nella stragrande maggioranza dei casi, quindi ci sono tutta una serie di tecniche per ridurre il dolore. Ciò non toglie che in alcuni casi in realtà l'evento più spiacevole è che l'animale viene sacrificato, quindi gli si leva la vita perché devono essere prelevati gli organi. Certo, quindi l'animale muore di fatto proprio perché possa essere strumento di analisi. Michela Kuan è con noi stamattina, responsabile nazionale del settore vivisezione per la LAV, la Lega Anti-Vivisezione. Buongiorno. Buongiorno a voi. Indispensabile per la ricerca, voi cosa ne pensate? Devo dire che le affermazioni che mi hanno preceduto purtroppo non sono il quadro della realtà della sperimentazione. Allora, innanzitutto i numeri non stanno calando, quindi non è vero che c'è un interesse nel diminuire quello che è il fenomeno sperimentazione animale, perché le statistiche italiane ed europee sono stabili intorno ai 12 milioni di animali utilizzati e uccisi ogni anno per fini sperimentali. 12 milioni di animali, quindi, e in questo campo stiamo prendendo tutti? Cioè immagino cani, gatti, topi. Assolutamente, la sperimentazione non ha limite di specie, si può utilizzare qualsiasi cosa e si può fare qualsiasi tipo di procedura. Il tipo di lo stereotipo dell'associazione investigazione farmacologica e vivisezione non è corretto, perché comunque lo sviluppo, la messa a punto di farmaci rappresenta a malapena il 50% del fenomeno, quindi molti pensano che ci sia soltanto questa applicazione, ma non è corretta questo tipo di interpretazione. Quale altra applicazione c'è? Vengono utilizzate ad esempio per studi tossicologici, vengono utilizzati per la ricerca di base, quindi investigazione su quella che sono dei processi indipendentemente dalla loro applicazione, come può essere un'investigazione cerebrale su una scimmia, e quindi ad esempio non c'è l'applicazione immediata. Beh, la ricerca di base però è ricerca a tutto tondo, senza la ricerca di base esatto. Non si arriva neanche all'applicazione. No, sono due. Beh, sì, sono due ambiti diversi, però è un classico tema della ricerca: si fa ricerca di base, esatto, o si fa ricerca di base. Ma non è farmacologia, perché tutti prima si parlava di farmacologia, ma sono ambiti diversi. Si utilizzano ancora gli animali in didattica, cioè noi insegniamo l'anatomia ancora con dei maiali o con gli altri animali messi sul tavolo da laboratorio. Inoltre devo dire che dal punto di vista sperimentale il modello non è comunque attendibile, perché oltre al coinvolgimento etico che ci deve essere, nel senso che le considerazioni morali verso l'utilizzo, lo sterminio di questi animali che soffrono dal momento in cui nascono al momento in cui muoiono, non bisogna focalizzarsi soltanto sulla procedura, che in ogni caso nel 15% dei casi in Italia gli animali non sono anestetizzati, quindi non è vero che l'animale non soffre ed è sempre anestetizzato, ma noi abbiamo moltissime procedure autorizzate dal Ministero che sono pubbliche, noi le pubblichiamo con cadenza triennale, dove si possono andare a vedere sul nostro sito www.lav.it tutti i tipi di procedure autorizzate dal Ministero della Salute, di cui il 15% avviene senza anestesia. Senza anestesia. Michela Cua, torniamo insieme tra un momento. Lorenzo Moia, lo ricordo, è ricercatore al Mario Negri, dunque un istituto di ricerca importante con una reputazione importante. Si parla di implicazioni etiche. Michela Cuan, che lo ricordo è responsabile nazionale del settore vivisezione per la LAV, dice che bisogna tenere conto delle implicazioni etiche. In che modo la ricerca, che come dire, non è per definizione scevra da queste considerazioni, tiene conto delle implicazioni etiche appunto nell'impiego degli animali? Beh, non è che la ricerca è indipendente dalla società in cui vive, quindi nel momento in cui collettivamente si decide che per esempio il numero degli animali deve essere abbassato, è chiaro che ci sia una spinta da parte del ricercatore stesso ad utilizzare dei sistemi integrativi. Al momento, nel 2012, purtroppo però siamo ancora dipendenti da dei dati. Io come medico non posso dare un farmaco ad un paziente se prima non ho il dato di quello che è successo in un animale. Quindi si tratta proprio di capire a che livello siamo nella storia del progresso della medicina umana. Ecco, dottor Moia, si dice, la nostra ospite Michela Cuan dice non solo impiego farmacologico, ma allora esistono, è possibile parlare di un impiego diciamo indispensabile e di un impiego che magari invece non lo è o non lo è più, magari in termini di applicazioni della ricerca? Però capire che non c'è solo l'impiego medico, ma l'impiego tossicologico è altrettanto importante. Noi dobbiamo studiare gli inquinanti a cui siamo esposti, dobbiamo studiare i coloranti e tutta una serie di esposizioni con cui veniamo in contatto. È vero che la ricerca di base non ha un'applicazione immediata come alcune ricerche cliniche, ma non è che per questo è importante. Ecco, Michela Cuan, ho chiesto prima a Giuliano Floris e lui ha risposto molto chiaramente, contrario sempre e comunque. La vostra posizione qual è? Voglio dire, esiste una contrarietà di principio oppure qualcosa di diverso? Dunque, io colgo l'occasione per sottolineare che oltre alle implicazioni etiche di cui si parlava prima, è importante fare anche le considerazioni scientifiche. Io come biologa e quindi come ricercatrice per molti anni all'interno dell'università mi oppongo alla sperimentazione animale e non sono l'unica, perché il fronte scientifico contrario a questo tipo di modello è sempre più crescente proprio per la sua non validità. Cioè lei come biologa dice non è vero che è indispensabile? No, anzi è dannosa, cioè la sperimentazione e il modello di riferimento, che in questo caso è un'altra specie, che differisce dalla nostra per anatomia, fisiologia, risposta immunitaria e una serie infinita di parametri non calcolabili, non è un buon modello. Questo è stato diciamo chiarito molto bene nelle varie pubblicazioni scientifiche e quindi ci sono dimostrazioni di quello che io sto dicendo, non è una posizione dell'animalismo, ma è una posizione scientifica fatta da molti ricercatori che sono comunque stanchi di vedere una ricerca ancorata a un modello che non funziona e che quindi frena e ancora quello che potrebbe essere il futuro della sperimentazione a qualcosa che non è attendibile, non è predittivo per l'uomo, perché questo è chiaro, che noi non siamo uguali a un topo e non siamo uguali a un cane, non siamo nemmeno uguali a uno scimpanzé, dalla base molecolare in su, quindi per una serie di parametri che io non posso calcolare. Nessuna dimostrazione, ad esempio, le 197.000 morti all'anno per reazioni avverse ai farmaci in Europa, morti quindi gravi, di cui poche persone parlano, non si vuole dire nulla, quindi c'è molta omertà su questo argomento. Ne sono una dimostrazione il fatto che noi non vendiamo farmaci veterinari, noi vendiamo farmaci per esseri umani. Se fosse così facile traslare il dato tra uomo e animale, non ci sarebbe bisogno di fare tutta la ricerca clinica, che invece è un passaggio necessario. Ecco, visto il suo punto è chiaro, però allora le chiedo, qual è l'alternativa alla sperimentazione? Perché è vero, lei dice 197.000 morti, io potrei facilmente rispondere che potrebbero essere il triplo senza sperimentazione sugli animali. Però mi dica, qual è l'alternativa? Se il presupposto di base è che il modello non è corretto, e che è il vostro presupposto. Che è il nostro presupposto, cioè l'opinione pubblica è purtroppo passivamente abituata all'accettazione della vivisezione come un male necessario, vede che se non fosse così chissà quante altre persone morirebbero. Questo è un presupposto di base che è stato inculcato nel tempo, ma che non ha nessun fondamento scientifico. Non ci sono pubblicazioni e un metodo di progettazione di quello che è il metodo sull'animale validato, mentre i metodi alternativi, che ricordo non sono soltanto i test in vitro, perché tutti parlano solo delle strutture cellulari, sono moltissimi di più, ci sono sistemi bioinformatici, ci sono ricerca clinica su organi, tessuti, su indagini epidemiologiche, ci sono dunque sistemi alternativi, dottoressa Kuhn, chiarissimo. Dottor Moia, a sentire la dottoressa Kuhn c'è tutto un modello, tutta una storia che è stata come lei ha detto, un modello che è superato. Dal suo punto di vista, questo modello perché è ancora attuale invece? Perché le faccio un esempio: se un paziente ha una malformazione cardiaca e deve avere una valvola del cuore sostituita, utilizziamo più spesso una valvola porcina. Per quanto si possa utilizzare anche una valvola meccanica, preferiamo utilizzare una valvola biologica che assomiglia di più al nostro tessuto. Abbiamo anche dei tessuti meccanici, possiamo anche lavorare sui computer, ma sono dei modelli estremamente semplificati. Ad un certo punto la complessità dell'organismo umano viene replicata solo nel momento in cui utilizziamo un animale. Questo non sarà vero magari tra 100 anni e non dobbiamo pensare che, come dire, il 2012 è uguale al 2112, ma dobbiamo progredire nel tempo e dare ai ricercatori la possibilità di trovare dei mezzi integrativi e poi vedere se l'animale verrà totalmente sostituito. Ecco, a proposito di sostituzione, che evidentemente è un obiettivo di lungo periodo, ma che cosa è accaduto in questi ultimi 15 anni nei laboratori? Cioè, ci sono i prodromi di questo cambiamento? Sì, ci sono sicuramente delle spinte a trovare dei mezzi alternativi. Voi dovete pensare che la persona che utilizza il topo o un animale è lo stesso ricercatore che utilizza i sistemi integrativi, non sono due persone diverse, perché sta studiando la stessa molecola e passa da un sistema all'altro, e che quindi ha interesse la persona stessa a cambiare, a utilizzare dei sistemi integrativi. Quindi non sono persone diverse, sembra quasi che siano ricercatori completamente diversi, che abbiano delle scelte di vite differenti, invece no. Degli atteggiamenti rispetto alla ricerca, che animali piuttosto che... Mi risponda a un'altra questione, dottor Moia, in termini economici è chiaro che, come in tutti i settori, innovare costa. Passare a sistemi che siano altri rispetto all'impiego appunto di mammiferi, animali, in questo caso animali da compagnia, ha delle implicazioni di costo che frenano questo sviluppo? Beh, l'animale è un costo, una parte importante del costo in una sperimentazione. Se potessimo abbattere i costi, sarebbe ovviamente ottimale, tanto che il passaggio sull'animale è un passaggio molto limitato nello studio di un farmaco o di una molecola, proprio perché i costi molto elevati fanno sì che si cerchi di abbassare il numero di animali, quindi c'è una spinta etica, ma c'è anche una spinta economica nel cercare di ottenere dei sistemi integrativi. Michela Kuhn, in conclusione, anche per lei, in un minuto, la sua posizione direi che l'ha espressa chiaramente, ma forse vorrà riaffermare il suo punto di vista rispetto a quello che diceva appunto il dottor Moia. Sì, problema del quadro italiano è che purtroppo i metodi alternativi, che sono obbligatori per legge dal lontano 89, poi ribaditi nel decreto nazionale del 92, attualmente vigente, che tra poco cambierà, sono chiaramente vincolati e messi come prioritari rispetto al modello animale. Quindi noi abbiamo una legge che già parlava chiaro, che purtroppo rimane totalmente inascoltata. Basti pensare che nell'università i metodi alternativi non vengono insegnati, c'è un gap culturale enorme legato proprio al fatto che l'unico modello di riferimento al quale i ragazzi vengono insegnati, diciamo, ai quali viene insegnato come tipo di procedura, è quello animale. Quindi lei dice: c'è nella legge, ma addirittura non c'è nella formazione dei ricercatori, di quelli che poi, appunto, quindi, come voi, poi si trovano. Esatto, quindi al di là di quelle che sono considerazioni etiche, dal punto di vista della progressione di un popolo che deve rappresentare una nuova ricerca, sarebbe giusto, perlomeno a livello universitario, quindi formativo, l'integrazione con corsi che insegnino quello che la legge stabilisce, che sono appunto la priorità dei metodi alternativi. Ecco, dottor Moia, è d'accordo su questo punto con la dottoressa Kuhn sul fatto che esista una discrepanza che viene indicata come clamorosa tra una legge che ha più di 10 anni e un di fatto una non applicazione, che non è soltanto non applicazione, ma è non insegnamento nell'università? Sarebbe però un problema ancora più grande, perché avremmo un problema di cultura scientifica all'interno delle università. Cultura scientifica vuol dire ovviamente insegnare sia il modello animale sia dei modelli integrativi. In questo caso sarebbe un problema di tipo educativo universitario proprio a livello del nostro sistema. Io penso che nei prossimi anni noi avremo una valorizzazione dei sistemi integrativi senza prescindere dagli animali laddove è necessario. Grazie a Lorenzo Moia, lo ricordo, medico ricercatore all'Università di Milano, lavora all'Istituto Mario Negri, alla dottoressa Michela Cua, responsabile nazionale del settore vivisezione per la LAV, la Lega Anti-Vivisezione. Bene, con questo abbiamo concluso tra qualche minuto l'appuntamento con GR24, poi con Oscar Giannino, insomma la giornata è appena iniziato. Intanto da parte mia un saluto, noi ci sentiamo domani mattina intorno alle 7:20.